203. Fritto negli stecchini. Fegatini grossi di pollo numero 2, lingua salata grammi 40, gruyera grammi 40, i fegatini coceteli nel burro e conditeli con sale e pepe. Dopo cotti tagliateli in 12 pezzetti e lo stesso fate del gruyere e della lingua. Prendete 12 stecchini da denti ed infilate nei medesimi i suddetti 36 pezzi. Prima la lingua, in mezzo il gruyera e in cima il fegatino a una certa distanza tra loro. Poi, servendovi della balsamella del numero 220, intonacate con la medesima i 3 pezzetti in modo che restino ben coperti. Indi passateli nell'uovo frullato, panateli e friggeteli. Potete, ai detti ingredienti, aggiungere, volendo, pezzetti di animelle cotte come i fegatini e pezzetti di tartufi crudi. 204. Agnello in frittata. Spezzettate una lombata d'agnello, che è la parte che meglio si presta per questo piatto, e friggetela nel lardo vergine poco basta, perché in quel posto la carne è piuttosto grassa. A mezza cottura condite l'agnello con sale e pepe e quando sarà totalmente cotto versateci 4-5 uova frullate e leggermente condite anch'esse con sale e pepe. Mescolate, badando che le uova assodino poco.